E ci siamo anche noi. Buon pomeriggio a tutti ancora una volta da parte di Katia Giuliani. Insieme anche nel corso delle prossime ore c'è la collection subito firmata The Commoners. Don't leave me this way. Oh, bella collection firmata The Commoners su Radio Subasio. Buon pomeriggio a tutti, donne ma anche uomini che siete lì a fare le faccende domestiche. Che ne so, adesso forse questo è il momento giusto, magari più tardi, però quello che vogliamo capire è se l'attività domestica è equamente suddivisa tra i due sessi, e vogliamo capirlo perché leggo: le donne ogni giorno dedicano quasi 3 ore più degli uomini alle attività domestiche. Purtroppo, secondo la scienza, è ancora una questione culturale che parte dalla scuola, quindi è nella scuola che bisognerebbe un po' invertire questa marcia, e quindi vogliamo capire: in casa vostra esiste questa differenza o c'è parità tra i sessi nello svolgere tutte le attività domestiche, e come lo fate, cioè com'è che vi dividete i compiti, cioè avete, che ne so, un calendario con i turni, oppure ognuno fa ciò in cui riesce meglio, e come avete diviso i compiti, ma soprattutto come secondo voi è giusto insegnare ai vostri figli che le faccende domestiche non sono solo più roba per donne o roba da donne. 348 075 80 60, entreremo un po' nelle vostre case così per dare una sbirciatina e capire cosa ne pensate. Subito Pinguini Tattici Nucleari. Nel cuore solamente foto di paesaggi, e non c'è posto per le tue foto con me. In auto dormi ed io non riesco a non guardarti. Sei bella da schiantarsi, da sfiorare il guardrail. Da bimbo mi ricordo odiavo le vacanze, tranne quando pioveva e stavo in camera in hotel. Spaccami come Hendrix con la Stratocaster, fai uscire le mie ansie ma non chiedi il cash. Sulle tue gambe ho letto il senso della vita, dimentica la Bibbia o le pagine di Freud. È meglio se restiamo amici come prima, ma poi facciamo mattina per parlare di noi. Noi siamo giovani. Sia lontano da me. Nel feed hai solamente foto di paesaggi, e forse è perché sei un paesaggio pure tu. E con i piedi mi disegni dinosauri sopra il vetro dell'Audi, non la pulirò più. E dal tuo nome è un uragano tropicale, ogni telegiornale poi parlerà di te. Sai che si nasce soli e si muore solisti, ma per fortuna esiste. Inizia la belle époque, che tempismo o'clock, bel teppismo black block che c'hai. Sei la storia Mark Block, un momento a Marcord, dai scambiamoci tutti i guai. Come Jack on the Rock, dammi un ghiaccio on the rocks, posti che non hai visto mai. Negli sfondi di iOS, tra i pianeti di sport, lasci il segno dovunque vai. Noi siamo giovani wannabe, ti dedico le autostrade che portano al mare. Giovani wannabe, figli dei fiori del mare, guerre lontane, non sopravvissuti anche alla fine della storia. Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang. Sull'isola è il mio passato come Dorian, portami dove vuoi, basta sia lontano da me. Radio Subasio. Meglio il traffico delle vacanze. infinite di macchine che si vedono al telegiornale, mi mettono di buon umore come gli stabilimenti balneari. E il cielo quando è tutto azzurro, e il cielo quando è tutto azzurro, e l'aria che sa di mare, e tutti ci vogliamo nuotare, e tutti ci vogliamo nuotare, e il sole che ci fa bene, alla pelle, agli occhi, alle ossa, e non ci fa pensare. Ai matrimoni, all'ufficio postale, alla festa del santo patrono, quando il volante non si può toccare. Mi mette di buon umore come il vento sotto la maglietta, e la birra che si scalda in fretta, e la birra che si scalda in fretta, e l'aria che sa di sale, e tutti ci vogliamo baciare, e tutti ci vogliamo baciare. Radio Subasio, ogni giorno le donne dedicano alle attività domestiche, alla cura della casa e della famiglia, per essere precisi, 2 ore e 47 minuti in più rispetto agli uomini. Quindi c'è ancora questo gap che insomma non viene abbandonato e che resta una questione culturale. Da quello che dice la scienza, secondo l'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, la scuola è lo spazio ideale per abbattere questi stereotipi di genere. E voglio condividere con voi un po' dei consigli per trasformare le attività domestiche in un gioco di squadra. Così come ogni sport ha le sue regole, la casa diventa il campo da gioco. Le vittorie si conquistano portando a termine le attività, la famiglia è la squadra e non esiste squadra con un solo membro in campo e gli altri sul divano a guardare il match davanti alla TV. Assolutamente no. Le migliori vittorie arrivano quando si valorizzano doti e aspirazioni di ogni membro del team, quindi ognuno deve scegliere anche in base un po' a quella che è la propria predisposizione, i propri gusti, e quindi vogliamo cercare di capire a casa vostra come funziona tutto questo. È davvero un gioco di squadra o lavora solo uno e gli altri sono lì seduti sul divano a guardare la TV? Mi auguro di no. E chi fa cosa? Cioè, come avete diviso i compiti? Insomma, avete fatto anche un calendario, magari stabilendo dei turni: oggi tocca a me, domani tocca a te, oggi faccio i piatti io, domani li fai te, eccetera eccetera. Cioè, come vi siete organizzati e come si fa a disegnare ai figli che le faccende domestiche non sono assolutissimamente più solo roba da donne? 348 075 8060, anche oggi aspettiamo i vostri messaggi. Got a tattoo, set to get us through life. Carving your name with my pocket knife. And you wanna

Io faccio tutto, faccio i letti, passo lo straccio, l'aspirapolvere, cucino, stiro, lavo i panni, faccio le lavatrici, faccio tutto, senza nessun problema. Più che altro è un fattore di coscienza e rispetto verso mia moglie che è più fuori di me da casa. E sono soddisfatto, sono contento, anzi io faccio 10, lei fa anche 8. Con questo non mi alzo da tavola, draio, per esempio, in questo momento io sto stirando e vi sto ascoltando. Fabrizio da Ravenna. Grande Fabrizio, ma felice di accompagnarti mentre stiri, hai tutta la nostra ammirazione perché dimostri che insomma gli uomini sono collaborativi, magari non tutti, magari c'è ancora da lavorare insomma su alcuni, però tu sei sicuramente un esempio, un buon esempio da emulare. In casa vostra com'è la situazione? Le faccende domestiche sono equamente suddivise tra i due sessi oppure sono ancora roba da donne? Cioè c'è lui che si alza dopo cena, si siede sul divano a guardare la TV e quindi tutto il resto poi tocca alla donna? Insomma è una cosa, è un gioco di squadra come si diceva anche prima, perché così dovrebbe essere un gioco di squadra, suddividendo tutti i compiti tra i membri della famiglia. 348 075 80 60 i vostri messaggi, anche vocali, WhatsApp oppure Telegram. immagini che lasciano il segno e resteranno dentro i miei occhi nel tempo. Se ti guardo, io rivedo me stesso. Ti addormento e nel silenzio del tuo cuore sento il battito. Ora che sei diventata la ragione che mi muove, tu inventi il tuo cielo tra linee di colore. Tu che hai dato alla mia vita il suono del tuo nome. Tu hai trasformato tutto il resto in uno sfondo. Tu e la mia esistenza sei l'essenza. Che lasciano il segno su Radio Subasio, bellissima canzone dei Tiro Mancino alle 17:43 anche questa. Radio Subasio. Too much of anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better, is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. Just know that you're not in this thing alone. Always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. Oh, anything that's worth having, sure enough worth fighting for. Waiting down on the question, when it gets tough, gotta find some more. All you can do is make the best of it now. Can't be afraid of the dark. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. Go. Bella come baci, Antonello Venditti nella serata di Radio Subasio Faccende Domestiche. Secondo i dati c'è ancora una distinzione di genere piuttosto fastidiosa che vuole le donne più attive rispetto agli uomini, cosa che però, devo dire la verità, molti di voi hanno smentito al 348 075 80 60. Prima abbiamo per esempio sentito la testimonianza di Fabrizio da Ravenna, che voglio citarlo perché insomma lui è bravissimo, ci ha raccontato che fa tutto a casa e la moglie è diventata, ve lo dico, la donna più invidiata del pomeriggio. Ciao Radio Subasio, sono Roberta di Aprigna. Ciao Roberta. Ma che ve devo dire, io ho un marito che si alza la mattina presto, torna la sera tardi e non c'è niente da fare. Ammiro Fabrizio, lo ammiro, e facciamoli conoscere con mio marito. Queste fortune sempre all'alto, io non so. Va bene, buona serata a tutti. Fabrizio di Ravenna, vedi, sei richiestissimo. Ciao Subasio, per fortuna posso contare tantissimo con le faccende domestiche, ma soprattutto in cucina, con mio marito. E quello un pochino più restio nel mettere a posto e mi basterebbe le sue cose è il mio figlio di 8 anni e mezzo, però dai, con lui possiamo anche sorvolare, anche se deve imparare, devono iniziare a imparare, certo, anche loro, però ecco, no, lavoriamo tutte e due, quindi grazie a mio marito che fa tanto. Dai, che sono bravissimi questi mariti, dai. Ciao, sono Eleonora da Montepulciano. Noi, per quanto riguarda le pulizie, collaboriamo sia io che mio marito, ma la cosa eccezionale è che collabora mio figlio di quasi 11 anni e lui veramente qualche volta mi stupisco, perché non è possibile che sia mio figlio, ma non, perché nessuno ha mai detto a lui: Cristian fai questo, Cristian fai quello, e lui lo prende e lo fa, sicuramente perché vede il padre, sicuramente perché vede me, e di questo ne sono molto orgogliosa. È proprio così, perché è quello che diciamo sempre, si impara dall'esempio, no? Cioè i figli osservano il comportamento dei genitori, per cui uomini, padri, insomma, cercate di dare il buon esempio ai vostri figli, perché solo così diventeranno adulti collaborativi in casa, così come lo siete voi. Quindi mi auguro che voi lo siate, che non siate di quelli che si siedono sul divano dopo cena e non danno una mano, ma sono assolutamente convinta che non sia così. La pioggia mi ricordava, tempesta che non si placa, e oggi non mi perderò. Che mi ricorderò che sempre provi, perché ricolma ed è traboccato, perché tu prendi la forma di ogni vaso. Piove, non c'è riparo, non c'è richiamo, gocce di tavolo, forse di vago. Ma ora che diluvia, penso che sei un'illusa, che non sa restare da sola perché ha paura. Ciò che c'è comune è il vuoto in cui sto affogando, mentre tutti lottano per un posto nel fango. E siamo dopo la fine, la scena post-crediti. Conosco i tuoi metodi, credi che me lo meriti. Per me essere forti potessi mostrare deboli, reciti. Io ho imparato a scrivere leggendomi. Piove su attivisti che imbrattano i monumenti, sugli sbirri che manganellano gli studenti. Piove sopra gli incendi, è come se li alimenti. Penso alle cose brutte che dirò mentre spero di rivederti. La pioggia mi ricordava, tempesta che non si placa, e oggi non mi perderò, perché non ho più tempo. So che mi ricorderò che sei importante. E lei vedeva in ogni crepa un tentativo in meno, e lui credeva fosse segreta la loro intesa. Almeno noi non ci saremmo persi in fretta. Poi il cielo piange e piove dalle nostre facce. Non puoi nascondere a te stessa ciò che perderò, perché non ho più tempo, forse non ti troverò, ma se cosa importante. Radio Subasio. Love My Life, Robbie Williams su Radio Subasio. Ci sono le breaking news di TG Com 24, sono le 18. E 5 minuti, buon pomeriggio a tutti da parte di Katia Giuliani, un'altra ora insieme, questa è Radio Subasio, la collection, arriva Zucchero e Pavarotti, Miserere. Subasio Collection. che mistero è la mia vita, che mistero. Sono un peccatore dell'anno 80.000, un menzognero. Ma dove sono? Cosa faccio? Io sono il santo che ti ha tradito quando eri solo e vivo altrove e osservo il mondo dal cielo. Subasio. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma f*** it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed, and I told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I do the same thing. I told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. Oh, I need you to stay. Kid Laroi, Justin Bieber su Radio Subasio. Gli uomini preferiscono le bionde. Io vi avviso, tutto merito o colpa, poi a seconda dei punti di vista, del DNA. Tra poco ve lo racconto meglio. Ora però state buone, cioè non è che mi correte dal parrucchiere a farvi bionde così subito, no? Aspettate un attimo, anche perché secondo me va approfondita la questione, no? E anche le more hanno il loro perché, insomma, lo dico da, come dire, parte interessata, ecco, mettiamola in questo modo. Radio Subasio, lo sapete, supporta i talenti di amici, dei ragazzi, di amici. Lui si chiama Wax, su Radio Subasio arriva il suo pezzo che si chiama Ballerine e Guantoni. Stessa prova al microfono concerto. Mi immagino danzare tra i teatri e gli spettacoli più grandi. Far parlare la mia anima sui palchi con un paio di scarpette sollevate. Ancora un pugile che combatte per non sentirsi più inutile. Con le mani sto grattando via la ruggine. Un animale che fa soldi per discutere. Voglio due scarpette e non guantoni da box. Non voglio stare fermo, ballerò e ballerò. Finché i piedi non bruciano io mi muoverò. Finché i piedi non bruciano io mi muoverò. Tutto rotto, prenderò lo scotch, sfogherò la rabbia ma non di nascosto, elegante muoverò il mio corpo. Radio Subasio. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Force from the beginning. Love. We've come too far.

sentire sussurrare adesso che ti sono vicino, la tua voce mi arriva, suona come un'onda che mi porta al mare, ma che cosa di più? Iris, ti ho detto ti amo, e se questo ti piace rimani con me. Quanta vita, stavo con te, i sapori degli umori, che dolori e che profumi respiravi quando non stavi con me. Iris, ti amo davvero, e se questo ti piace rimani con me. Iris, Biagio Antonacci su Radio Subasio. C'è uno studio che ha svelato, lo accennavamo prima, che gli uomini preferiscono le bionde ed è tutta una questione di DNA. I capelli color del grano conferiscono un'impressione di maggior salute e maggior giovinezza. Chi ha i capelli neri invece sarebbe considerata la meno attraente in assoluto. Per questo il genere maschile è più motivato a riprodursi con le bionde. Ora, intanto la ricerca è stata fatta, ve lo dico, in Minnesota, quindi magari in Italia, non so, i gusti sono diversi, tanto per dire. Poi, senza nulla togliere alle bionde, c'è un ulteriore elemento dello studio che ha messo in luce un aspetto contraddittorio, ovvero pur preferendo le bionde, gli uomini tendono a scegliere partner dai capelli rossi, castani o bruni con cui creare una famiglia. Un po' come il film, no? Gli uomini preferiscono le bionde ma sposano le more, il concetto è un po' quello. Però io, insomma, la chiuderei dicendo che le donne sono belle tutte, dai, mettiamola così, tutte, indistintamente bionde, more, rosse e anche grigie. Viva le donne, sempre e comunque, così non si fa torto a nessuno, però le more hanno il loro perché. C'è Rosalind. I can't turn my head off, wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie, they said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Cause I'm out. I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snap in 1, 2, where are you? Radio Subasio. Dimmi di riprovare, ma non di rinunciare. Perché di cose perse, lo sai, sono un campione. Se questo nostro amore avesse già sbiadito i tuoi riflessi. Ma tu ancora, mentre volo tu sbadigli, ridi mentre penso a quali nomi darei i nostri figli. Vedi, potremmo essere questi, però invece ancora scherzi. Radio Subasio. Ciao, sono Blanco, amici di Radio Subasio, vi faccio ascoltare la mia nuova canzone L'Isola delle Rose, un bacione. E sono il solito bastardo, e scusa se ti scuse nella tasca non un miliardo. Ma non questa vita e questo fottuto disagio, anche se piano piano mi guardate, le schizze e sorrisi con le drame. Non ci sono mai stato, sono cambiato, da quando ero profumo forte nello scantinato, da quando rubavo gli anelli e te li regalavo, da quando ti spogliavi nude e ti fotografavo. Il singolo nuovo di Blanco su Radio Subasio, 18:36. Ragazzi, siete stressati? Che domanda, ma che domande fai, mi direte voi? Chi non lo è stressato? Però sappiate, voglio dirvelo così per tranquillizzarvi un attimo, che ha del positivo lo stress. C'è un team di neuroscienziati dell'Università della Georgia che ha indagato la relazione tra stress e memoria. Sentirsi sotto pressione può addirittura migliorare la nostra capacità di ricordare. L'importante però è non esagerare con i livelli di stress. Certo, sembra facile messa così, insomma, come arginare lo stress? Perché non è che tu puoi star lì, no, durante il giorno a misurarlo e non è facile poi tenerlo sotto i livelli di guardia, no? A volte lo stress sfocia e diventa veramente altissimo, quindi come si può fare? Non lo so, bisognerebbe chiedere agli esperti. Io di mio vi dico che la musica aiuta tantissimo, quindi se siete in auto adesso magari o a casa, tirate sul volume, magari se ci scappa vi fate anche una cantatina e lo stress si abbasserà sotto i livelli di guardia come per magia, soprattutto se arriva un pezzo come questo. Il volume deve essere alto, però arriva John Legend e questa è All of Me. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all your perfect imperfections, give your all. Affections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh. Radio Subasio. Cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire un po' come fa il cielo sulla testa mia le regole dell'anarchia. Quel momento magico dopo i preparativi, in cui la barca prende il mare e ci si sente vivi, con solo l'orizzonte come limite. Ricordati di vivere, è un testimone complice invisibile. Ricordati di vivere, ed un sorriso antico come viatico. Ricordati di vivere, ricordati di vivere. Me lo diceva una fotografia che stava appesa al muro in casa di mia nonna, di un giovane che non fece mai in tempo ad invecchiare e non si fece mai dimenticare. E in quella vecchia foto in bianco e nero, con gli occhi in procinto di sorridere, sembrava come dire proprio a me: Lore, ricordati di vivere, se anche ti restasse solo un attimo. Ricordati di vivere, se nelle tasche avessi solo polvere. Ricordati di vivere, se dentro al cuore avessi un solo battito. Ricordati di vivere, ricordati di vivere. Quelli che riempiono lo spazio dove vivono di cose che non occupano spazio e respirano, la voce forte e pronta a darsi come un dono, e poi le storie e le parole che si intrecciano ai silenzi del mondo e fanno come una rete i pesci che non hanno palpebre e che non hanno sete. Catturano gli attimi come oggetti solidi, i mostri, le sirene, le gomme di automobili, e poi gli amici che fanno memorabile la vita, che si trasmette agli altri come un contagio, e poi non passa più neanche se muore, rimane sempre in circolo attraverso gli altri cuori. Se anche ti restasse solo un attimo, ricordati di vivere. Se nelle tasche avessi solo polvere, ricordati di vivere, come se fosse sempre il primo battito. Ricordati di vivere, ricordati di vivere. Che bella, ricordati di vivere. Il primo battito, c'era Jovanotti, il singolo nuovo su Radio Subasio. E voi invece ricordatevi di rispondere correttamente, e cioè semplicemente la verità, se vi arrivasse la telefonata che sonda l'ascolto radiofonico in cui vi si chiede che radio ascoltate, la risposta può essere solo una, la verità: ascolto sempre solo Radio Subasio. inesorabili attraversano il silenzio del mio cielo, per poi nascondersi ad un tratto dietro nuvole che straziano il sereno. Sentirle riaffiorare quando tutto sembra aver trovato il giusto peso, aver la voglia di rubarle al tempo per poterli dare tutto un altro senso. Distratto, stupido e testardo, come sempre provo a farlo, ho deciso di fermarlo per poterti avere ancora. Non dire una parola, sperando che non se ne accorga, ho strappato via anche l'ultima mezz'ora, pensando che sia l'unica maniera per sentirti qui vicino ancora. Sempre più stupido e testardo, come sempre torno a farlo, e di nuovo per fermarlo e poterti dire ancora. Nella serata di Radio Subasio 18:50, ma ben trovati a tutti voi ovunque siate, se vi va come sempre di condividere con noi il vostro momento, questo momento di questa serata, fatelo, noi siamo felicissimi, così ci sentiremo ancora più vicini a voi, lo dico sempre, no? Immaginarvi mentre ascoltate Radio Subasio è insomma, ci dà di più la sensazione di essere proprio fisicamente vicini a voi, e quindi 348 075 80 60, se vi va. When we only cared about the fall, there was no way to know that we would get here now. Too early to stay worried about us all, before we knew what we were both about. And now we're stuck in holding, everything is frozen, we're faking safe and sound. Man, I can't keep picking up each time you call, if everything I say just is down. You're all that I want, you're all that I need, and if it hurts me, I don't want it. You're all that I want, you're all that I need, and if it hurts me, I don't want it. I'm learning, baby, we keep on burning. No, I can't leave you, the world will keep on turning. But I'm thinking lately, what's so concerning? Soon as I leave you, I just keep on hurting. And once we're off the tracks, it falls apart too fast. And we've been scared for too long, never really last. And once I get to thinking, it all keeps coming back, yeah. You're all that I want, you're all that I need. lie, you know you don't die for me. Why not run out in the dead of night? Baby, don't you lie to me, my God. Oh God, baby, let's not lie, you know you don't die for me. Be honest, just try to be honest, cause you're all that I want. Radio Subasio, Subasio. Questa notte non so dormire, qualcuno urla dal balcone, perché ha perso l'amore o il cane, o la sua rivoluzione. Questa notte mi porto in giro, lungo i portici e le mie strade, ogni stella è così vicino, l'universo monolocale. A quest'ora l'avrai capito che la vita può fare male, farti morire all'infinito di un dolore occasionale. Ma stanotte è tutto perfetto, come una formula segreta, una lampadina fioca accesa in fondo a una bottega. Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno, darci e fidarci della gente. Pigliare il mondo a sassi, se buttarci via, buttarci via. Questa notte sembra un miraggio, un profumo che dura poco, l'incoscienza che dà il coraggio anche di ridere in faccia al vuoto. Questa notte ti porto in giro, impigliate i miei pensieri, e tutto sembra così pulito, come fossimo nati ieri. Ma quest'ora l'avrai capito, che non c'era un tempo perfetto, ora che il tempo c'è un po' sbiadito, come foto dentro un cassetto. Ma stanotte è così leggera, un vecchio film in prima visione, una bugia che sembra vera, potrei giurarlo sul mio nome. Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno, darci e fidarci della gente. Solo essere diversi e buttarci un po' via, e pigliare il mondo a sassi, si buttarci via, buttarci via. Ogni tempo ha le sue regole, ogni sbaglio le sue scuse, la memoria e le sue pagine piene di cancellature. E qualcuno dal balcone che ripeta ancora: non ti ricordi che, non ti ricordi. Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno, darci e fidarci della gente. Solo essere diversi e buttarci un po' via, e pigliare il mondo a sassi, si buttarci via, buttarci via. Radio Subasio. Let me see you move. Come on, come on, come on, dance. Let me see you move. So fine, and a dive Michael Jackson, Justin Timberlake su Radio Subasio. C'è l'informazione breaking news di TGCOM 24, sono le 19. Minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, un'altra ora di musica e la collection, arrivano gli America Survival. Subasio Collection. Survive you. Well, it's too late, I know, to change the way we go. From this day on, I want to stay on. Now that I've started learning and the tide started turning, well, it's here. Try to stall for a while. So hard to answer every question, and it's hard to protect your heart anymore. Avrei voluto avere dei begli occhi blu, stare nuda al vento e non pensare al tempo che non torna più. Mi innamoro sempre del tipo sbagliato e stavolta sei tu. Però ci credo sempre e penso meno male che a volte li ascolto i consigli. Restiamo sempre un po' figli, nel cuore mio ti aggrovigli. Ti sento solo se stringi, ma dove sei non ti vedo. Io non ti vedo più. E tutte le volte che resto da sola con me, chiami di notte, cene romantiche, tanti saluti cliché, se sei forte sto bene, ma giro per strada da sola. Dove sei ora? Dove sei ora? Il mio appartamento appartamento sembra un'astronave, puoi vedere Marte. Se l'amore è un gioco, dammi un'altra mano, truccami le carte. E restiamo qui, doveva andare così. Fammi un sorriso, ma sì, ricorderà che New Rips, qual era il film? Tra le tue braccia scomparivo. Dove sei non ti vedo, io non ti vedo più. E tutte le volte che resto da sola con me, chiami di notte, cene romantiche, tanti saluti cliché, so essere forte, sto bene, ma giro per strada da sola, dove sei ora, dove sei ora? Tutte le volte che mi guardo intorno e non c'è luna di notte, non ti arrabbiare se non saprei tutto di me, che te ne fotte, sto bene, ma Alessandra Moroso su Radio Subasio. I soldi fanno la felicità, eccolo, ma senza superare una precisa cifra. Quando si parla di soldi ci sono delle ricerche che lasciano un pochino perplessi, diciamo così. C'è questo studio che ha esaminato il rapporto tra guadagni e benessere. L'analisi è stata condotta su un campione di 1.700.000 persone in 164 paesi diversi e il risultato ha messo in luce che non bisognerebbe superare gli 80.000 euro all'anno. Da questa soglia in poi, con l'aumentare dei guadagni, decresce la soddisfazione personale, cioè il rischio sarebbe quello di sprofondare, spiegano, in una pericolosa spirale di bisogni indotti e spese folli, quindi acquistare beni superflui di cui non abbiamo bisogno, che poi ci allontanerebbe dalla serenità. Oh, problema che non si pone, credo, per la stragrande maggioranza, no, delle persone, cioè lo starete pensando anche voi, immagino anche che starete pensando, ma tu dammeli sti 80.000 euro all'anno, che poi vedi come ti divento felice e come farò a diventare felice. Lo so, in effetti viene da immaginare, è più facile immaginare una felicità direttamente proporzionale al reddito, no? E non il contrario, però io sono anche convinta che la felicità arrivi anche da altro, non voglio dire frasi banali, ma insomma dagli affetti, dall'amore, dalle soddisfazioni personali e, perché no, un pelino anche dalla musica, quella giusta, quella che vi fa stare bene, come quella di Radio Subasio, come quella di Tananai. Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei, discuterne tra gli scienziati. Io che sono indeciso, lei che ammette se non ha mai letto un libro. Dovrebbero proteggerla come i musei, come si fa tra innamorati. Io ci ho provato, amore, ad essere speciale. Ma non sono speciale, vorrei fossi speciale, almeno tu per me. Dimmi che ricorderai che eravamo proprio belli insieme. Abissale. Parlerò di una ragazza che uccise un uomo che stava guardando l'alba. Gli disse: l'alba non si guarda mai da soli. Mi siederai che sei un tipo strano come me, che guardo solo ai tramonti, fammi vedere i tuoi mondi. Abissale. Ricorderai, ricorderai, ricorderai che eravamo proprio belli insieme. Ricorderai, ricorderai, ricorda anche io. Ho sofferto come un cane. Cosa ci fai, cosa ci fai? Cosa ci fai? Dimmi, non vedevi che la differenza tra noi è una differenza abissale. Radio Subasio. Subasio. Subasio. Mentre guardo il mare, il mio pensiero va alla latitudine di un'altra età. quando ci credevo nelle favole, sempre con la testa fra le nuvole, sogni e desideri diventavano realtà dentro il libro della fantasia. Era la stagione della vita in cui non c'è malinconia. Tempo di inquietudine, sento che non ci si può più illudere, nonostante tutto resta un po' di ingenuità, dentro la speranza ancora c'è, come allora voglio continuare sempre a chiedermi perché. Fa compagnia la solitudine, questo posto mi sembrava magico, nel ricordo di quando ero piccolo, come allora cerco una risposta che non c'è, e non so che differenza fa, rimanere ferma ad aspettare oppure andare via di qua. Ramazzotti su Radio Subasio. Un po' di saluti voglio farli al volo, per esempio Francesco di Terni che ci scrive al 348 075 80 60. Francesco ci ascolta mentre passeggia, ci racconta tra le vie del centro già illuminate per la festa del santo patrono, ossia San Valentino. È vero, si avvicina anche San Valentino. Ciao Francesco, buona passeggiata. Saluto anche Giorgio di Roma invece, che ci tiene a specificare a proposito della notizia di cui si parlava prima, che gli uomini preferiscono le bionde. Dice: io sono sincero, preferisco le more, la mia compagna era mora quando l'ho conosciuta, purtroppo poi con dei tassi in bianca è anche allergica alla tinta, si è fatta bionda, poi ho dovuto cedere e adesso è sul grigio, che è bellissima lo stesso. Cioè, poi adesso è stato sdoganato il cosiddetto silver look, no? Quindi è di gran tendenza. Torno a ripetermi, viva le donne, sempre e comunque. C'è anche Fabio Rovazzi ora. C'è qualcuno che si ammazza, ho la soluzione in tasca, non chiamo l'ambulanza, filmo, mi son tagliato con la carta, il panino ha troppa salsa, chissà come si sta in Ucraina. Non succederà più, almeno principio nessuno sa niente. Nessuno sa niente. Dall'alto del nuovo terrazzo, il palazzo di fronte è più alto. Mi sveglio la mattina, più stanco di prima. A volte penso che la vita sia proprio... Basio. I know that's just the way it goes, and you ain't right for sure. You turned your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger. Let me cry and baby I'm stronger than before. I gotta know. Radio Subasio. Sei nell'anima, Gianna Nannini su Radio Subasio. Non so se siete ottimisti o pessimisti, ma insomma, essere ottimisti vi do una buona nuova, fa bene alla salute, ovvero se siete pessimisti difensivi, è proprio una categoria specifica, i pessimisti difensivi li chiamano così e sono quelli che sfruttano il proprio atteggiamento disilluso a loro vantaggio. Questa forma di pessimismo li aiuterebbe a predire inconvenienti e a risolverli tempestivamente. Ad esempio, avere basse aspettative, dicono gli esperti, può rivelarsi incredibilmente utile, non solo perché nel caso in cui le cose vadano bene saremo doppiamente soddisfatti, ma anche perché pensare a tutti gli scenari peggiori che potrebbero verificarsi ci aiuterà a prevedere eventuali contrattempi e imprevisti, immaginando in anticipo delle soluzioni. Eh già, è quello che dico io da sempre. Cioè, io mi aspetto il peggio, così si arriva al meglio. Mi stupisco in positivo, se arriva il peggio sono, diciamo, preparata. In ogni caso, mai, e questo è fondamentale, avere un atteggiamento auto passivo distruttivo e passivo, dicono gli esperti, mai crogiolarsi nell'autocommiserazione, e questo mi sembra assolutamente fondamentale. C'è Tiziano Ferro, La prima festa del papà. Io cambio anima, tu cambi sorriso, da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me. Messaggio era mio padre che mi diceva la storia prosegue, il testimone è tuo. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita, illumina anche me che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri, gettala nel mare tra tutte le altre guerre. Che questo non è amore, è la rivoluzione. La guardo da qua, la mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande. Vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, neanche sognavo perché mi negavo un amore così. Come in quel messaggio di mio padre, che diceva il tempo corre, fermalo, con loro poi si vedrà. E tanti auguri da papà papà. Splendi amore grande, e fai che resti arte la tua vita, illumina anche me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri, gettala nel mare tra tutte le altre guerre. Che questo non è amore, è la rivoluzione, la guardo da qua. Chi ha vissuto coi sogni da parte lo nega, ma è morta d'arte. In questa città da tre sillabe sole che composero le mie parole, da bambino le ho tutte imparate e da grande le ho pure inventate. Figli miei, sono nato in un mondo che distrusse quel sogno a metà, ma i miracoli non puoi fermarli come la mia prima festa del papà. Splendi vita mia, che tutto il resto è buio. Il mondo è fortunato a poter dormire accanto a te, ad averti qua, e anche io, perché oggi rimarrà per sempre la mia prima festa del papà. Radio Subasio. Scrivo solo adesso, un motivo ci sarà. Non è mica San Lorenzo, non ci sono stelle matte su sta piccola città. Non ci sono desideri da non dire come te. La sua puntualità. Hai lottato come un uomo con la brutta compagnia che manca sangue che nessuno mai è pronto quando c'è da andare via. Hai pregato bestemmiando per la rabbia, per tutta la guria, per le scelte che stava facendo. Tardi, e nemmeno il diario vita, le bambine occhiate in chiesa sono tutte quante spose, sono tutte via da qui. Non si affaccia più tua madre alla finestra, a urlare tutta. C'è neanche più la tua curiosità. Lai la la la la, lai la la la la, lai la la la la la, lai la la la la, lai la la la la, lai la la la la la. Dove sono le ragazze che sceglievano fra noi? E dov'è la nave scuola che hai confuso con l'amore? Forse lo era più che mai. Non c'è più la pallavolo e i tuoi attrezzi, non c'è più l'hi-fi, non ci sono più quanti tuoi guai. Lai la la la la, lai la la la la, lai la la la la la, lai la la la la, lai la la la la, lai la la la la la. Quando hai solo 18 anni, tante cose che non sai. Quando hai solo 18 anni, forse invece sai già tutto, non dovresti crescere mai. Se ti scrivo solo adesso, è che sono io così, e che arrivo spesso tardi, quando sono già ricordi che hanno preso casa qui. Non è vero ciò che ho detto, qua c'è tutto a dire che ci sei. Fai buon viaggio e poi, poi riposa se vuoi. When the beat drops out and the people gone, we still be there for me, child. And when the lights go out and the morning come, we still be there for me, child. When the beat drops out, life happens when you're making plans, flying high and shaking hands. The song will write you, you don't write it, I didn't mean to fall in love. It was rhythm that created us. I was running, we collided. Baseline, I will always make time. I just wanna know that feeling's in your heart for me. Baseline, after all the great times, I just wanna know that feeling's in your heart. found a new way to live. I see an alternative. Now we started, we can't stop it. I didn't mean to fall in love. Last thing I was thinking of was you and me, but we collided. Baseline. When the beat drops out. When the beat drops out. Marco Rossi su Radio Subasio quando sono le 19.52. Preparatevi perché torna anche il 3 per te tra poco, e se vi arriva la telefonata in cui vi si chiede che radio ascoltate, voi rispondete alla verità. Mi raccomando, ascolto Radio Subasio. Always marching to a drum, brat-a-thumb, brat-a-thumb. Always focused on me, one, one, one, one. Now I wish that I could hold someone, someone. So tell my mama love, call my baby sister, shoot a hug and kiss her, 'cause life is just a mystery and it's gone before you know it. So if you love me, won't you show it? 'Cause this life is one big symphony. This night is one for you and me. I'm the strings and trumpet on the saxophone. Life is skipping rope, keep going, keep going. Finding solace in the note, do, do, do, do. Had to struggle when I was broke, so low, so low. Writing music just to cope, no hope, no hope. Yeah, life is just perspective. Laughing when you wrecked it, but smiling when you kept it together. You weathered the storm at the end of the play. You sang all the way. Doesn't matter how. If I played you the flute, see, it's my favorite one, 'cause it's so delicate and beautiful. I pull out the trombone if it's more suitable. Wanna make you smile, it's been a little while since I've seen the bite of your teeth, been a hard year. Lucky the guitar is here. Subasio. Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere. Sai che ti cercherò in tutta Milano, che ti stringere forte la mano, nei locali alla moda, anche sotto la coda del diavolo, credimi. Solo con te io sospiro tutta la notte, pa-pa-ra-ra-ra-ra, forse ti riamo davvero tutta la notte. Tardo per l'ultimo metro, di mezzanotte perché siamo fantasmi, da qualche parte mentre ci pensiamo. Vicini, commetterà un omicidio, le nostre impronte sul vetro, al confine tra un bacio e un incendio. Sai che ti cercherò in tutta Milano, che ti stringerò forte la mano, nei locali alla moda, anche sotto la coda del diavolo, credimi. Solo con te io sospiro tutta la notte, pa, pa, ra, ra, ra, ra, forse ti riavvolgo. weekend è così lontano. Io un gesto me l'aspettavo, due frecce non fanno un arco. Papararara, il weekend è così lontano. Io un gesto me l'aspettavo, due frecce non fanno. Solo con te io sospiro tutta la notte. Papararara, forse ti riamo davvero tutta la notte. Papararara, come te. Radio Subasio ci portano l'informazione, breaking news di TG Com 24, sono le 20. Buona serata a tutti, un'altra ora insieme, questa è Radio Subasio, tra poco torna il 3 per te, subito la collection. Arriva Mango, lei verrà. Subasio Collection. Forse di mattina, dal

3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio. Siamo pronti a suonarvele, le canzoni più significative della vostra vita. Questo è l'appuntamento in cui vi diamo proprio questa possibilità. La diamo a due di voi tutte le sere dalle 20 alle 21, tre canzoni ciascuno da ascoltare una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Questo è anche il momento giusto per prenotarvi, lo dico agli altri, se volete anche voi essere protagonisti e ascoltare le tre canzoni più importanti della vostra vita, segnalatecele adesso chiamandolo 0758060, oppure lo potete fare tranquillamente sull'app di Radio Subasio, c'è una sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60, indicando sempre comunque le tre canzoni che volete ascoltare, perché poi saranno quelle le tre canzoni che noi vi suoneremo nel corso dei prossimi appuntamenti. Come subito le suoniamo a lui, il primo protagonista di questa sera, conosciamolo. 3 per te su Radio Subasio. Nome: David. Città: Palazzo d'Assisi, provincia di Perugia. Qui siamo a Palazzo, comune di Assisi. Entriamo in questo castello. Età: 48. Cosa fai nella vita? Ci occupato. Segno zodiacale: Cancro. Anche il segno del cancro quest'anno risorge dalle ceneri. Se potessi viaggiare nel tempo, in quale epoca andresti? Medioevo. Valenti cavalieri, vedove lussuriose, preti seduttori. Nell'arco di circa un millennio, l'immaginario medievale ha partorito personaggi pittoreschi che rappresentano le mille sfaccettature della sessualità dell'epoca. La cosa più carina che qualcuno ha fatto per te? Non lo so. Se potessi o dovessi cambiare nome, come ti chiameresti? Non piace il mio, David. Come David a Firenze! Trovi la lampada di Aladino. Quali sono i tuoi tre desideri? La serenità, se vi allungo, per non averci problemi. Non ci sono problemi. Non ci sono problemi. Non ci sono problemi. Hai mai infranto la legge? No. Un ricordo imbarazzante? Nessuno. Non abbiamo avuto sfruttate le assegne del comune, niente. Ci siamo guardati noi. Tre persone che vuoi salutare: mia madre, mio fratello e mio padre. Le tre canzoni della tua vita. Un beso, ci vediamo. Caduto di Lucio Dalla. Gianni Morandi ha brutto le porte. Radio Subasio, 3 per te. Passerà, sto passando io e lui resta, mi devo trascinare presto fuori di qua, dai miei pensieri pigri nella testa, fare qualcosa, oppormi all'inerzia, alla sua forza, che rammollisce il corpo mio da dentro, mantenendo rigida la scorza, e ogni giorno mi sveglio e provo a dire questo è un giorno nuovo. Se funziona o no, non lo so, forse sì, va così, va così, va così, va così. Stai andando forte, apri tutte le porte, gioca tutte le carte, fai entrare il sole. Stai andando forte, apri tutte le porte, brucia tutte. Bestia, un parassita che lentamente infesta tutto quanto fino a prendere il potere e non riesci più a reagire, e ogni giorno mi sveglio e provo a dire questo è un giorno nuovo, e lo esplorerò partendo da ora e da qui, vai così, vai così, vai così, vai così. Stai andando forte, tutte le porte, gioca tutte le carte, fai entrare il sole. Stai andando forte, apri tutte le porte, brucia tutte le scorte, fai entrare il sole. E quando il sole non c'è, lo cerco dentro di me. Se tu mi guardi una volta.

Lucio Dalla, Caruso, a chiudere su Radio Subasio il primo tre per te di questa sera. Grazie a David di Palazzo di Assisi, provincia di Perugia. C'erano anche Umberto Tozzi, Ti amo, e Gianni Morandi, Apri tutte le porte. E il tre per te non finisce qui, perché ritorna tra poco e suoneremo le tre canzoni più significative di un altro di voi, una via l'altra, senza alcuna interruzione. Intanto grazie per averci scelto anche stasera. Vi ricordo ancora che se vi capitasse nei giorni prossimi di ricevere una telefonata in cui vi si chiede che radio ascoltate, voi siate pronti e rispondete alla verità: ascolto Radio Subasio. Radio Subasio. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. Be tall, break your camera. I'll do everything I can to help you through. If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby. Wish I was around, I just wanna make you happier, baby. We've been doing all this late. Been a fan of change, but I'd follow you to any place. If it's Hollywood or Bishop's Gate, I'm coming too. Amici di Radio Subasio, sono Alex e sono felice di potervi far ascoltare il mio nuovo pezzo Dire, fare, curare, featuring Sophie and the Giants. Radio Subasio. Ho letto il mondo può essere infinito, se respiriamo lo stesso respiro, e c'è qualcuno che sorregge il cielo e vola con la forza del pensiero. Se più ti guardo più mi sembra vero. E tenere bene le mani sopra gli occhi, fare 2000 giri su se stessi con la luce spenta, con la luce spenta. Se tieni bene le mani sopra gli occhi, giuro che sarò forte, sarò pronto per tenerti stretta, per tenerti stretta. Dancing through the lightning, spinning up a frightened. Sometimes I wanna run backwards. All of the time I dream about being younger. All of the motion, it only gets faster. Try to remember how we never stop smiling for the bruises that we keep. Tenere bene le mani sopra gli occhi, fare 2000 giri su se stessi con la luce spenta, con la luce spenta. Se tieni bene le mani sopra gli occhi. occhi, giuro che sarò forte, sarò pronto per tenerti stretta, per tenerti stretta. Bene le mani sopra gli occhi, fare 2000 giri su se stessi con la luce spenta, con la luce spenta. Se tieni bene le mani sopra gli occhi, giuro che sarò forte, sarò pronto per tenerti stretta, per tenerti stretta. Per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio. E avanti il prossimo, la prossima, tocca a un altro di voi, un'altra di voi, il piacere di ascoltare tre canzoni precedentemente richieste, una dietro l'altra, senza alcuna interruzione. Continuate nel frattempo anche a prenotarvi per i prossimi appuntamenti, scegliete le tre canzoni che vi piacerebbe ascoltare. 0758060, se volete chiamare, sulla nostra app c'è anche una sezione dedicata al 3 per te dove potete prenotarvi, oppure inviate un WhatsApp, un messaggio Telegram indicando le tre canzoni al 348 07 580 60, e al resto penseremo noi, vi ricontatteremo nel corso dei prossimi giorni e ve le suoneremo nel corso dei prossimi appuntamenti, come subito le suoniamo anche a lui, il secondo protagonista di questa sera. 3 per te su Radio Subasio. Nome: Angelo. Città: Roma. Età: 42. Cosa fai nella vita? Consulente informatico. Visto che la tecnologia è ovunque, tutti i nuovi lavori sono incentrati sullo studio dell'informatica, dell'elettronica, delle telecomunicazioni e di tutto ciò che circonda queste tre materie principalmente. Segno zodiacale: Ariete. Che piatto o cibo vorresti essere? Il piatto di fusilli al pesto. Dai, che ce la parte in tavola! Bucatini! Aggiudicati! Sorry Samantha, ci sono i fusilli che aspettano. Il più bel ricordo: l'acquisto del mio primo giradischi. Dai, attacca il giradischi! Dai, attacca il giradischi! C'è da divertirsi! C'è da divertirsi! Inventa una parola: dual. Non ci sono più? Non ci sono più i valori: modestà, sincerità e fedeltà. Una scusa: Devo mangiare. Devo mangiare. Fammi mangiare. Tieni. Meglio fare e pentirsi o pentirsi di non aver fatto? Meglio pentirsi di non aver fatto. Se lo dici tu. Sai stirare una camicia? Sì, so stirare una camicia. Infatti bruciava 2 camicie la settimana col ferro da stiro. 3 persone che vuoi salutare. Saluto tutti quelli che mi conoscono, poi saluto anche quelli che non mi conoscono e quelli che mi vogliono sia bene che male. Le tre canzoni della tua vita: Boom Da Bash con Fade 65 Ren, Roxette Joyride, Franco Battiato Cuccurù Cuccù. Radio Subasio, 3 per te. Avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu, Subasio, 3 per te. Problema è la 3 per te su Radio Subasio. Hello, you fool. Joyride a chiudere il secondo 3 per te di questa sera. Grazie ad Angelo di Roma, è stato il secondo protagonista di questa sera. Angelo ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche i Bundabash con gli Eiffel 65, Heaven e ancora prima Franco Battiato, Cucuru Cucu. Abbiamo terminato il 3 per te per questa sera, ma torneremo a suonarvele anche domani sera, stessa ora dalle 20 alle 21. Due di voi avranno il piacere di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita. Quindi, se volete essere voi prossimi, richiedete le tre canzoni chiamandolo 075 80 60, oppure andate sulla nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60. That I know is real, real, real. It's in the way you look, it's in the way you love. And I can see, can see, can see.